stazionari c'è. Ho visto la portante, non ce n'è stazionaria. Sale a Santiago Novo, è perfetto qua la portante. La mia sale a più alta, vediamo, le stazionarie. Manco si muovono, non so. Manco si muovono, capito? Ma tu c'eri ieri sera quando abbiamo sentito la Natalina con la sirena, prima io, poi lui. C'è che hanno rapinato il comproro che c'è in Viale Trento, però non l'hanno rapinato al negozio, dice che quando questo se ne sta andando alla macchina con presunti valori, non so che tipo, se soldi o gioielli o tutte e due. Due moto, così dice la nuova, gli hanno puntato col casco, erano. Hanno puntato la pistola e gli hanno preso tutto. Ecco perché sentivo polizia qua correre, poi anche la Tarino l'ha sentita passare verso dove lui. Sta diventando una città abbastanza criminosa, Sassari. Tappine, furti, cosi, stufri, uno schifo. Ma sinceramente parlando l'ho sentito stamattina quando mi stavo prendendo il caffè, però poi non ho sentito altro. Ho capito qual è il comproro, quello di Viale Trento. E boh, lei dice che ci sono diversi quattrini, un mediolo, capito? Anche se uno così ha detto la televisione, poi sa, la televisione 600 dice 200, se 200 dice 400. Veia, ma mi pare che già ieri notte sulla Nuova Online c'era la notizia, e oggi l'ho letto sulla Nuova Cartacea, capito? Sempre lì, c'è il volume, tanto qua c'ho le batterie mezze scariche, le portatili le devo caricare. Poi giornate grane, sai, non vogliono uscire. Vabbè, sono con la barba lunga e pigiama già da 3 giorni. E mi sa che mi metto a posto, dai, sennò magari bussa qualcuno, devo essere tutto abbruttito, aprire. Bene, ho cambiato bene l'aria, questi gatti cagano come dinosauri, capito? E quindi l'odore si spazia nelle stanze. E meno male che ci sono solo due, mi. Vabbè. Troppa gappa. Ok, ok. Vabbè. I gatti sono così. Cari sono diversi, i gatti sono così. E beh, il cane lo fa fuori, no? Il gatto c'ha la sua sabbietta. Anche ci dicono che trattiene l'odore, la sabbietta, no? Cosa trattiene? Quindi va cambiato spesso, anzi forse mi tocca oggi o domani. Oggi o domani. Bene. Bene. Vabbè dai, mi preparo, sennò qua va a finire che mi sto tutto il mese fino a Natale a Brutizzo, dai. Faccio la barba, mi vesto e ci sentiamo più tardi, tanto ancora c'è nessuno, magari la Natalina ancora si deve alzare. Vero Natalina, o ti sei già alzato? Non sento manco stamattina per niente. Oh, ma perché state entrando anche di mattina a parlare? 27, no, io mi sto girando da un'altra parte di mattina. No, io sì, accendo la mattina, ma no, non presto, verso c'è mezzogiorno, capito? Qualche volta magari c'è Natalino, c'era qualche un altro. Stamattina ho chiamato, poi me ne sono uscito, sono entrato che era l'una là. Eia, ma dico almeno tu stai uscendo, bel bar, fai colazione, ma io la faccio a casa. Però se mi alzassi anche alle 9 andava bene, tanto da prepararsi, faccio un giro, perché niente, sono proprio, io se fossi domiciliari starei benissimo, perché sono come che fosse domiciliari, come questo che c'è a fianco, il portone. Ah, così è. No, esco, forse esco la mattina, Mi ascolto la mattina, prendo il caffè, poi entro a casa e poi esco verso un mezzogiorno, così sino a luna e poi me ne rientro di nuovo. Non sto tutta la mattina in giro, comunque. No, ti abbatta, sono tra la sera chiuso a casa. Se no una rottura di balle, capito? E infatti la mia è una rottura di balle. Proprio una rottura di palle. E beh, d'altronde. Ma oggi mamma era dal medico, è andata da sola, via Lomberto. Non ha visto la gradina strappata. E lì poi non riesce a rialzarsi. Lo sai, non c'è come se non avesse le porte per rialzarsi, è un po' da quel punto di vista è molto legata. Infatti l'hanno aiutata due persone a rialzarsi. Perché lei non guarda dove cammina, tiene il mento alto, capito? Io ho un terzo davanti, guardo i due terzi a terra, per evitare strampate. Qui là sei anziana. È bello che quando cade non riesce a rialzarsi, come se non ci avesse forza nelle braccia o nelle gambe per rialzarsi. E questo per me è un handicap, come che fosse invalida. Ma poi cosa c'è, sto peluce? No, c'è solo la gamba, l'artrosi alla gamba, come si chiama, allo snodo. Ma ecco, anche quando cade a casa sembra una specie di sacco ribaltante, non ha forza per, anche con le braccia per tirarci su. Fate chiamare un po', e vabbè, i genitori invecchiano. Magari fossero eterni i genitori, eh? Mamma mia. Fossero eterni, sì. Magari. Purtroppo ci fanno e poi se ne vanno. Per me sarà un duro colpo. Farò mancare a mia madre. Sarà un colpo duro. E non so se ne uscirò più. Se riuscirò a rialzarmi dal colpo. Prospettive di vita non sono rose e dopo meglio non pensarci, dai. Ma infatti non ci pensare, fregati. A futti dinni, va bene. Ma vuoi sapere gli anni che cosa aveva combinato, se aveva andato per quel piede? Chi è che me l'ha mandato il piede, tu o lui? Io l'ho visto il piede, ma non era tutto viola come fatto, era un po' gonfio. Un po' gonfio e boh. Però se gli fa male il dito, se gli fanno male le dita, deve andare al pronto soccorso. Poi, se non va in te, poi peggio, perché gli si gonfia ancora di più. Spero che sia andato stamattina. Che sia andato stamattina a fare che cosa? A farcelo vedere, no, al pronto soccorso dal medico, che ha detto che era gonfio, che non poteva mettere le scarpe nemmeno. Ah, io gli ho detto ieri di andare. Non so. Vabbè, che quando vai ti fanno aspettare 8 ore, minimo 8 ore. È uno stilicidio, è uno stilicidio. Andare al pronto soccorso. Hai visto quella donna? Era roba di 6 ore in attesa ed è morta lì. Capito? Per l'attesa. Chi lo sa? Magari era roba di cuore. C'era sulla nuova lo stesso. Molto contatto per tutti i soldi. Qualsiasi dubbio contattato. La zona franca in Sardegna esiste già. Se no, adesso com'è che si chiama l'impianto? Impianti Bolotò, la zona di fabbriche, di cosa, come si chiama? Enike, prima si chiamava Sir. Enike, ma alla fine cosa producono? O non producono più niente? Che materiale producono, si sa? Nuda, mi sembra sia ancora aperto l'impianto della fibra, non è più nuda. Quando c'ero io sì, e c'erano tutti gli impianti aperti, capito? Allora erano raffineria, adesso non si chiama più raffineria, ma si chiama Montinaggio. Tutto è malora qua, mamma mia, mamma di turchi. Sì, diventerà proprio la città del carraggio Montinaggio, tutto ferro, ferro, acciaio e tutto ferro. Se hanno ancora sostanze chimiche all'interno pericolose da smaltire. È pieno di sostanze chimiche. Anche Salvatore ci sono TBE, meglio non parlare. Prima era Tivasi, adesso non c'è più niente. Prima arrivavano le petroliere a scaricare il greggio, adesso qualche gasiera arriva, ma poca roba, c'è più nulla. È morto, è morto. Parlavo proprio ieri con un amico, è morto. Mamma mia. Adesso prendiamo freddo, adesso chiudo tutte le finestre. Vabbè dai, si sente più tardi. Adesso mi devo sbattare, dirozzare e vestire, dai. Tardi, salvo imprevisti, tocchiamo fermo. Siamo salvo commissioni e rottura di palle, dai. Ehi Marco, intanto me ne sto alzando anch'io. Mi do una sistemata, poi già. Già sono qua anch'io, dai. A dopo. Ok, già è tutto acceso anche dall'altra parte. Ehi, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Qualcosa che non andava, adesso mi senti? Ah, c'era qualcosa che non stava. Qualcosa non stava andando nel PTT. Ma ecco una cazzo. Cercando di ammazzare il tempo, ma non passa mai, però. Che devi rifare tutto da capo. Riprendere in mano la situazione. E così è, però dai. Piano già ci mettiamo un po' in carreggiata. Allora, il problema è che posso andare in diretta perché non so come si mette il tono in quel nel Vox. Non lo so, ho visto che ci sono ma non so come si inserisce. Quindi ho provato ma no. In diretta so, capito? Però già dovrebbe funzionare, beh. Tutto qua. Aspetta, ripetimela, com'era? 400 in ascolto? Prova a vedere. Non arriva forte, come mai arriva così basso? Sì, sì, no, è grande, arriva. Ma è Santiago 3? No. Non so col mio sicuramente non arriva, sono con l'antenna grande, col 790. Come sono per lì? Cioè, ci vediamo con Antonio, come sei per lì? Con Antonio portateli dentro a casa, parliamo. Ma stai scherzando, c'è qualcosa che non va. Beh, certo è collegata, ma è in verticale o in orizzontale l'antenna che ha messo Antonio? Riprova a vedere, però si abbia commutato male, perché io ho il 780 e il 790, prova. No, sempre uguale. Cappa. Ehi, ne ho preso. No, avevo abbassato io il volume un attimino. Per quello non ti ho sentito. Aspetta, ricordami. Che faccio nell'occhio? L'altro. Ricordami la frequenza. Prova a vedere. Sì, fondo scala. Lumino puro. Antenna UHF. Niente. Sto controllando qua. PL 1, 2. Commutatore dove vai? Sul. Non so. Non lo saccio. Sto guardando. Non lo so. Non lo non so, e intanto queste estate abbasso tutto, l'antenna ne tolgo tutto, capito? Tutto di smontare direttive, smontare tutto e lascio solo la cosa, perché sennò poi mi viene male all'improvviso, togliene tutto, capito? Già il libro alterrato, insomma, siamo già, i punti sono quelli che fatti, io il prossimo anno magari devo andare da qua, quindi, capito? No, manco, ma ti chiamami, mi affutti. No, ne approfitto appunto, questa è già stata riparata due volte l'antenna, è stata riparata, capito? Quindi ne approfitto e la metto nuova, ce l'ho nuova dentro la scatola, la 7000, l'avevo comprata, non l'ho mai montata. Non l'ho mai montata perché quando dovevo cambiarla l'antenna era già su, questa la 510 era già montata, quindi riabbassare tutto eccetera, non ho trovato le scatole, quindi l'ho montata. Adesso quando ho smonto tutto, forse anche primavera, marzo, aprile, tempo bello, adesso non tocco più niente. Scendo tutte le direttive, le pulisco, le conservo, rimango dentro le scatole e metto solo la 7000, capito? La Mantova lascio, così è più facile nel momento in cui sono già pronto, salgo su da solo, stacco tutto e via, invece così ci vuole più tempo, capito? Vendendo che cosa? No, roba mia di certo, io compro, non vendo. C'avevo un po' di materiale e c'ho ancora qualcosa di un animatore che non è di Sassari. E diciamo una gran parte l'ho venduta, avevo un bellissimo 440 con un piccolo difettuccio, solo nell'accensione naturalmente, il resto era perfetto. MC80, MC85, strumento, il CN801 della Daiwa che ho venduto, ne ho venduto quasi tutto, mi manca il commutatore A5 della Oxin, nuovo dentro la scatola, l'MC85 mi sembra, e poi un baracchino base, e boh. Sì, questo è buono, questo è quello A4 della Oxin, va molto bene, glaciale, però al momento lo tengo io, perché qualcosa me la voglio ottenere, infatti devo telefonare per un po', dobbiamo quantificare e poi lo vediamo. Ma questa è una fesseria qui, è buono quello che ho io, molto buono, bello massiccio, A4, gappa gappa. Fammi vedere una cosa, 1, 2, 3, 4, 9, sì. Quello ti stavo ricevendo Santiago 3, senza antenna al 790, antenna attaccata al 780, sei imbecille, io lo dirò più in dì. Adesso se non mi dici del commutatore, ma dimmi due, dopo la matti, lo tengo sempre acceso perché lo tengo anche in ascolto nell'EPD e in PMR, no? 780. E quindi c'è l'antenna collegata. Adesso stavo guardando, ma è A4, il commutatore viene 3 collegati, come mai? E l'altro non è collegato, perché è collegato alla 780 anziché alla 790, quindi non ti preoccupare. Arriva a fondo scala. Non si può essere, no, esatto. Sarà la luce, no? Non ci fu accesi, ci sono. E mi ha parlato, sto pieno di vecchietti, avranno protestato. Allora, anzi ho protestato io. Ma, riscaldamento voglio. Invece avrò finestra aperta, figurati. Adesso l'ho chiusa, visto che c'è il riscaldamento acceso. Non me ne sono manco accorto. Boh, ma va. Si abbiglia come le vostre mani. Vabbè, poi si abitueranno piano piano, mica mai qualcuno me l'ha chiesto, stavo ancora lavorando, sì, sono in ferie, sì, ma io Gianfranco sono sempre contrario ai contattori, è che c'ho al contrario adesso, capito, sulla parte UHF, sulla parte V c'è diretta. diretta, diciamo, mentre invece sulla parte U c'è un commutatore, perché ci vuole essere radio in UHF da seguire, capito? Ci vuole essere radio da seguire in UHF, quindi come se, ogni tanto, come abbiamo fatto poco fa, mi dimentico di attaccare l'antenna. Vabbè, sia Briellucci. No, però la riapro la finestra, non so stare con la finestra chiusa io. È una goccia allucinante. E ci stiamo girando la pausa. E vabbè, può dire che con Marco ci mi accompagna alla Maddalena, invece troviamo qualche negro, così mi passa la freddura. E dice che sono i più bravi lì. Capito? Sono rimasti i più bravi, quegli americani della NATO, capito? Sono i più bravi, così hanno detto. No, che se ne siamo andati, vai alla Cruca che c'è l'asino lì. E almeno rimane soddisfatto. Ciao Gianfra. Non lo so, vorrei provare, cioè vecchiaia ci provano tanti brividi. Ah, andata lì. Ora si cambia, beh, passi a tutto la freddura. A detta di qualcuno, non lo so, io non l'ho provato, quindi non lo so, io ho per sentito dire. Ah, per sentito dire? Vabbè. Comunque, vediamo, dai, ci faccio un salto, vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. E se no andiamo assieme, a vedere se mi si addrizza la gamba. Avviro Natali, a vedere se ti metti a posto la stampella lì. A Gianni ti mando, a Gianni, ci ribassano tutti i dolori. E peghi così, È vero, vedi. Provaci pure che siano contenti anche le mogli, Gianfè, quindi facciamo tutt'uno, mi. Bisogna unire l'utile al dilettevole. No. Il proverbio dice che con una farra hai preso due piccioni, invece io no, io con un piccione ho preso due farre. Sì, beh certo, sempre, beh, non è che puoi cambiare categoria, no? Oia, mamma mia, come sto? E Marco l'ho fatto a finire, ti ce la fa la barba, mettere a posto. Ce l'avevano mandata via, chi è che me l'ha detto? Io non riesco a capire come faccio a non intervenire proprio, non lo so. E io mi immagino che ci sono sentenze, stanno aspettando le votazioni. E allora così non fanno niente, aspettano la sua dipartita, così almeno non devono fare nulla. Io non sono mai andato, sinceramente parlando, però mi hanno detto che è veramente una vergogna vedere questa buttata lì sotto la pensiniera del tram. Ma poi l'igiene, Gianfra, l'igiene. Io mi immagino solo l'igiene, dove va questa a lavarsi e a fare i bisogni. Non so, è proprio l'igiene, una cosa schifosa, solo a parlarne, guarda. Sì, e cosa posso fare? Ne ho uno solo di cagnolino e anche piccolo. Infatti, di norma sono quelli piccoli, sono quelli i peggiori, Natali. Quelli che sono affettuosi, poi quando muore, gli rimane chi vi muore. Come te la musica e mania, e tu mani vanno. Sì, ma quella ci lascia le penne, io non lo so, adesso è pure senza tetto, senza nulla, non c'è niente, dice, gliel'hanno buttato giù, dice. No, e quello è l'inizio, capito? Quello per farla andare via sicuramente, addirittura, pensi sia così. Vabbè, però bisogna vedere com'è la situazione, non so. Se lì gli hanno tolto il tetto adesso, come mai? Forse proprio per mandarla via. Beh, lo credo. A proposito, siamo senza acqua qua. Quando è che tornava? Di sera o di mattina? Ma quando è che è mancato adesso? No, tutto il giorno siamo senza acqua. No, penso che il ripristino sia entro la mezzanotte. Ok. Ha detto il ripristino verso mezzanotte, ha detto che dovrebbe essere. Sì, hanno finito il travaglio, se no domani. No, mezzanotte. Sì, Sì, di solito è così. Vabbè, devi dare anche il tempo di riempire la condotta nuovamente. Siamo staccato da Monteoro e deve prima riempire, se non possono attaccare la le pompe. Capito? No, beh, comunque. Già arrivo, dai. Domani mattina già c'è l'acqua. No, io qua manco accorto, ma è solo la verità, perché c'è il vascone, quindi no. 24 ore di autonomia al vascone, perciò non c'è nessun problema. Vai Gianfra. E vabbè, ma in questo caso siccome stanno facendo lavori e quando mettono in pressione la condotta togli i filtri, tu li lascia sfruttare bene e poi li rimetti. Sì, che sia sporca non lo metto in dubbio. Io non c'ho questo problema, la verità. Sento sempre questa acqua sporca, la mia è sempre bella pulita, limpida, perché io ce l'ho qua da via Milano, la cisterna è via Milano e quindi è per cadute, non c'è nessun movimento. Sicuramente il vascone sotto sarà sporco, però l'acqua è bella limpida. Perlomeno qua entra nella vasca nostra qua. Vedo anche il galleggiante, perché io apro spesso, sempre bello pulito, bello. Non ci possiamo lamentare, dai, perlomeno qua dove sono io e poi nelle altre zone non lo so. Ma dura poco, il tanto che arriva io la faccio spurgare e poi diventa tranquilla l'acqua qua. La luce almeno te la puoi fare. Boh, l'ho già fatto. Ma senza chiedermelo, fai uno più uno, se questa è acqua. Assolutamente, non è la zona di numero, qualcosa è entrata. Una coghina, se mi divido, non è entrata tutta brutta, cosa è entrata, deve piovere tutta la notte, a giorni alterni, un giorno sì, un giorno no, capito? A giorni alterni, durante la notte. Da quest'ora, sino a domani mattina alle 6, pioggia, che non sia quella disastrosa, però deve essere pioggia, non questa pioggerellina fine, non serve a niente quello, oppure cosa durata, non ha fatto, ma perché ha piovuto a Sassari, io non mi sono accorto di niente. A proposito, piovendo state, buccia Rucani, devo buccia Acla. No, non sta piovendo. Okay. Ieri notte è piovuto, boh, tutto asciutto, io stamattina ho portato il cane, tutto asciutto. No, non ho fatto acqua Gianfra, io acqua deve fare acqua, ma deve essere acqua però, capito? Pioggia libera grossa, 20 minuti di quella pioggia grossa, bella, rospante, quella vuol dire ingresso nei bacini, no, queste cagate di pioggia così leggera, non serve a niente, capito? Oppure piovere tutta la notte, ma la mattina alzarci e non sta più piovendo, però già latte durante la notte, sempre senza quella dannosa, quella bella, però qualcosa entra, se no, cosa nevano. Non che fa quest'anno, c'è un vecchio rumore di te, vai in Natalia. Devo portare il cane, dai, che non lo sto portando io, diciamo che non sto a te. Via, portalo già siamo qua. C'è anche Marco, ma ha detto devo andare a farsi la babba e mettersi in ordine. E sicuramente deve andare da portare magari qualche coperta, ragazzi. Io mi ho invitato un sacco a pelo, capito? Ce n'è detto ieri, fatto un sacco a pelo, bello, con quelli grossi. Mi sarei entrato, sarei messo sto qualche tettoia lì, mi ci stare sotto la chiesa bencerina. Io ti ripeto, per me l'avevo umiliata, liata e portata a Romani Cubio, e l'altra parte è un po' portata a quella. Più che mai come un po' portata. Non so quanti anni ha, non so. Io non l'ho ancora vista, sinceramente parlando. Un giorno sono passato lì, ho visto la barra a Coppoli lì, però lì non c'era. E provarsi pure, che quando sono passato io lì era veramente coperta, che non l'ho vista. manco come ha fatto. Aveva il passo per la testa, ma qui doveva anche a Bebù. Se si faceva aiutare, forse era meglio, che stava lì. Montata un red, quello che c'era i servizi adesso, non ha abbassato le temperature già di brutto, figurati. Figurati, credo che c'è, infatti negli anni 80, no, che c'è 80 anni, ne ha poco più di 60, 63, 64, come tutto, perciò ancora c'è attiva se vuole fare, può rimettersi in gioco. Però cosa arriva, alcuni arriva, alcuni patate, boh, andare. Ecco il problema, non è togli anche aggressiva, quindi aspetta un secondo, Giaffa mi sta chiamando mia moglie. Allora lì non puoi attaccare niente. No, lui cosa comprate? Cosa compri? Il problema è che poi l'antenna va franco, non lo può punire, no? Chi c'è un problema? Non lo vuole mettere per non rompere le scatole a nessuno, capito? Franco di Sorcio. Non è che provare a comprarsi un'antenna, presa lì, per un'abbastanza. Il problema è che non le vuole comprare, non le vuole mettere proprio, quindi per fare le chiacchiere in città, secondo lui va bene così, però quella Storm 27 è un'antenna piccolina, meglio di quell'antenna che hai tu della macchina, offra, capito? È piccolissima, sarà un metro e qualcosa, un metro. C'è anche a Marco quando a Natalino, perché Marco l'aveva prestata a Natalino. A te non mi sembra che non ne abbia mai piazzato, capito? Quindi bisogna chiedere a loro. Provarla, se va bene, al posto di quella lì, la metti. Vedere un po'. Se va meglio, lasci quella e insomma, te la compri quella, quella, non lo so. Avanti, capri. Quella cosa non si buttava mai. Io c'ho un piantone, mica mi ha dato Gianfranco, poi ne avevo un altro che l'ho dato di Mantova. C'ho i radiali in alluminio in fibra, devo darli a Luca, mi dimentico sempre di portarli. Non si buttano mai, capito? Non si buttano mai. Il centrale lo stesso, sono sempre cose da poter fare qualche antenna e modificare, capito, capri? Tutto lì. Avanti, Franco di Sorcio, vieni avanti. Aspetta, io ho la Mantova 5 che se ne sta ridendo, te lo ricordi qua, che già aveva un paio di mesi. Ehi Natalia, ho capito, ma per Franco, non ne serve di Mantova. Si diceva l'antenna manna, non c'è alcun pareggio, lui vorrebbe provare l'antenna che rende più di quella che sta, che c'è adesso, capito? Quindi stavo dicendo, infatti, ho detto, quella Storm 27, quel ghisorroccio di Kublu che ti aveva dato Marco, ce l'hai tu o ce l'ha Marco per fargliela provare? Così se va bene se la compra. Ah, lo sai che non me lo ricordo. Bisogna vedere se guardo. Ma quelle non rendono un cavolo mio. O clà. O si fa una di quelle come quella che sto costruendo io, e dice che pompa di più dalla Mantova. Ehi, questo da verificare. Che pompa più dalla Mantova, non c'è lui. La Mantova, a me no, non ci sono antenne che la battono per conto mio, forse sarà l'altezza, non so. No, ma è troppo grande. Se lui vuole l'antenna da cui li vedi, fai se la compra, Franco, non è quello il problema. Lui vuole un'antenna piccola che renda più di quella che sta usando adesso. Penso che quella Storm 27 renderà di più, no? Di quell'antenna che sta usando adesso, Natalia. Guarda se la trovi. Cazzo, ce l'avevi tu? Non lo so se l'ho tornata a Marco io. Devo controllare. Lo so, Fra, lo so che ce l'hai davanti, va, lo so, ce l'avevi a Ripunti, lo so che ce l'hai davanti, va, è un problema di spazio, è un problema che nessuno deve avere niente, capito? Tutto lì. Se non ti ricordi che gliel'hai ritornata, chiediamo a Marco per vedere, perché Marco ce l'ha una di quelle, capito? Se va meglio di quella che stai usando adesso, Fra, che hai un po' più di ricezione, perché trasmissione è quasi più di 9, quindi non me ne frega niente. Però se hai un po' più di ricezione, per fare due chiacchiere va bene. La provi, se va bene ti leggo un pareggio. Avanti, Sorcio. Fra, non lo senti a Sorcio, no? E se non senti a Franco di Sorcio, non senti a nessuno, Perché lui è in capposizione da 10 all'ore, Franco, non ce n'è per nessuno. Non lo senti, no? Quella lì va bene l'antenna, ma cosa ti costa allungare il capo e metterla su, Fra? È piccolina, non si vede nulla. Trova una staffettina palo a palo, lo vediamo assieme. Lo fai vedere, intanto sono a casa, adesso non ne ho problemi. Lo vediamo, uno spazietto non c'è per mettere questa antenna, c'è un disturbo, cosa... Franco ti sente, basso basso ma ti sente. Se tu che lo senti a lui, vedi dove è la differenza. Fa vedere. se ti sente adesso, socio. Hai sentito, Fra? Ehi, la giornata è qua. Tu, come ti dica, sei proprio tu, sì, è proprio la posizione in cui si trova l'antenna che non marcia, perché lui ti sente. Non ti sente, basso basso, ma ti sente, mentre il capo non ti sente per niente, vabbè, io e Natalia non ti sentiamo. Vuoi trovare una soluzione, Fra? Se quell'antenna secondo te va bene, io l'avrei messa su. L'avrei messa su alla grande. Guarda che adesso mi sente meglio, sosto. Prova. Mi si è aumentato qualcosa, adesso ho messo una vitamina. Ok, dai, saluta tutti Giulio che è a casa della mamma. Mi ha chiamato nella monitor, va bene. Ok, niente, hai sentito, Fra? Sì, ho sentito che ha attaccato la vitamina, segnale riguardo di te. Che segnale? Mi ha attaccato un 6-7, dai. Figura dei due, arrivi 6-7 con lineare attaccato, quindi vedi che l'antenna funziona bene, o Fra? Però tu non ricevi? Sì, è solo questa direttiva, praticamente, da dove puntare un radiale anche dall'altra parte, magari. A nord, quando c'è qualcosa di direzionale, sempre a nord, ovviamente. A nord, non sbagli, a nord. Il radiale, se ce l'hai verso di me, giralo verso la Sinara, capito? Verso Sorso, Seno, ricordo lì, a nord. Non penso. Avanti, Capri. Ascolto a Franco, a tutti ascolto io, anche se non posso aumentare la potenza per farmi sentire di più, vi dovete accontentare. Avanti, Fra. Vai. Tutto l'impianto elettrico è già fatto di quell'antenna, mi devo decidere a metterla a posto e poi a farla su. Quella canala pesca sto facendo, è leggerissima quella, no? E poi silenziosa, confronto alle altre antenne è più silenziosa, ricevi più bene. Sì, li va vedendo in quattro, fa vedere Franco di Giosciu, che arriva più forte di te, Franco di Sassari. Poi hai parlato tu e Natalino in quattro, li va vedendo. 7 metri è alta. 7. Sì. Ok, va bene. Non capisco, sta facendo bene, Fra. Alla grande. C'è stato un altro break, mi serve aereo, avanti. Hai visto, mi ha voluto, vabbè, io sentivo a Franco di Sorso su Franco di Sassari. Poi è entrato Natalino e quindi ha parlato sopra tutti e due. E vabbè, ciao aereo, buonasera, mi hai sentito. Se vuoi rimanere siamo io, Capri 2, Franco di Sorso, Franco da Sassari, Natalino e... c'era anche Gianfranco, però si è allontanato dato che stava facendo roba. Ciao, io più, grazie per essere entrato a salutare, limiti a dopo, magari si entra Gianfranco e si è allontanato un attimino. Ok, il cambio per Capri, allora, sì, ti avevo benissimo, hai visto, finalmente mi hai ascoltato, là saluto Gai, con il microfono eccezionale, la radio quale stai usando, sempre quella là? Sì, diciamo... tu hai le antenne del radio, lo fai attività. Come è capitato a me. Vabbè, vediamo se quella preghiera ne sono dominio, ma intanto queste tratte ne tolgo fra io le mie direttive e tutto, lascio solo la manta, poi è una particolare, iniziamo a conservare tutto, mettere tutto dentro le scatole, pulirle, mettere tutto dentro le scatole, sennò alla fine non serve a niente lasciarle lì per far vedere che cosa. Le tolgo. Anche perché ho deciso di andare a abitare in campagna, come la canzone, quindi volevo vivere in campagna. E allora, da qua, ne tolgo tutto, poi si vedrà. Avanti, Natali. Ehi, ciao Elio. Ben sentito. Vabbè, e cosa vuoi che ti dica? Io sono tornato da portare il cane, qua. Si era manco venuto con i barati. E io ho avuto fortuna, mi è arrivata mia moglie, ha detto papà non ti metti neanche, lo porto io. Se l'ha preso, se l'ha portato lì il cane. Capito? E quindi mi rimango al calduccio Francesco. Avanti, Franco di Sassari. Salendo verso Monte Oro dovrebbe essere, se non l'ha montata Vittorio a casa dei genitori, Vittorio Giove. Non so, lì so, salendo a Monte Oro so che ci abitano i genitori di Vittorio. Non so se l'ha piazzata lui, perché so che ce l'aveva una bella direttiva, non l'ha mai montata qua a Sassari, perché anche lui ha problemi di spazio, di cose, eccetera, eccetera. Non so, io sono fuori da quel campo, quindi non so esattamente di chi sia. Molto probabilmente la sua comunque, perché lì c'è la Monte Oro, a destra ci abitano i genitori di Vittorio Giove. Che l'abbia pensata per usarla, per provarla, perché lui spesso va lì, dai genitori, capito? Anziché magari stare in macchina, va lì e fare qualche collegamento, lui è molto appassionato di collegamenti, di chiacchierare e fare, lo sento spesso. Va bene, sono contento, almeno prende un po' di acqua con l'antenna, invece di tenerla sotto il letto. Va bene, avanti, Capri, riprendi. Sì, però la batteria al litio. Apri. Aspetta un attimo che devo aprire e poi ti rispondo. Scusa, stavo aprendo la mia figlia. Allora, la batteria al litio nel 440 serve per le memorie. Se tu la memorizzi, no, le metti la memoria, vai, le imposti una memoria qualsiasi, te la mantiene, quindi la batteria al litio, non anche se tu la spegni o fa tanto eccetera, la memoria rimane sempre, ok? Mentre invece potrebbe essere il backup, perché so che nel 440, oltre alla batteria al litio che serve quella per le memorie, no? C'è anche una batteria per il backup. Il backup è praticamente la parte, diciamo quella, proprio la scheda madre, chiamiamola così. Quindi lì ci dovrebbe essere qualche altra batteria del backup, oppure c'è qualche altra cosa. Lì poi, sai, quando la metti sul banco, al banco prova, il tecnico solo se ne può accorgere, perché già l'hai vista in tutte le sue funzioni, è regolarissima solo all'accensione, a questa cosa che tu l'accendi e va a 14.000, va praticamente nella banda centrale, quindi in 20 metri, perché tu quando resetti la radio va in 20 metri, quindi non mantenendo la parte del backup tu l'accendi e la trovi in 20 metri, quindi poi devi andare in 27 eccetera, ma chiamiamolo difetto, non so, comunque la radio è perfettamente funzionante per quello che è avanti, socio. Praticamente la parte della scheda madre è quella che fa funzionare la radio, capito? Che tutta la parte display, accensione, tante cose c'ha, però non è facile quella, ma non è facile anche cambiare quella lì, che lo devi fare la radio a pezzi. La differenza del 140 e 180 e ce l'hai sopra, quelle sono, devi smontare mezza radio. Vi consiglio di non toccarle, fatele fare da chi veramente c'ha un laboratorio, da chi usa saldatori ad aria, eccetera, eccetera. Perché se sbagli ci rimetti la radio, c'è alimentazione, capito? Va bene, va bene. No, beh, non era la mia quella, ma l'ho andata a vendere, l'arrivatore che ha dismesso l'attività e c'ha questo problema, l'accensione in bomba. Per l'elettro è funzionale al 100%, anche abbastanza nuovo. Ho pagato una fesseria, Gianni, però funziona molto bene, fra. Girare, beh, anche la mia l'ha fatto, fra, e non è un problema. Io ho mandato prima il 440 a mettere tutto in setto, riallineare, cambiare tutti i condensatori, sono state cambiate i diodi, qualche resistenza, qualcosa, e poi ho mandato il 430, perché il 430 non aveva messo a posto la prima volta Fabrizio, secondo me aveva messo il frequentimetro nuovo, quindi la radio era abbastanza presentabile nuova. Poi iniziato, si spegneva parlando qui e là, quindi falsi contatti eccetera. L'ho mandata anche quella e l'ho fatta tutta rimettere a posto, riallineare, fare, quindi un po' alterno. Adesso ad esempio sto usando il 430 con l'MC85, come vedi spinge che è una meraviglia, è una cannonata. Ieri stavo usando il 440 con l'MC60, ma c'è anche il 60. Le alterno un po', infatti le ho messo il commutatore e le alterno un po'. Lo ripeto, è questione di usarle queste radio, usarle. E io, la mia, non è un problema che è rimasta ferma, è un problema proprio di usura, si è completamente varata un fumo, come si dice a Sassari, o fra. Quindi è materiale di consumo quello che è al tuo, nel senso che non è un difetto, si consuma, e quindi vogliono cambiare di nuovo tutti i condensatori, riallineata, rimessa a posto, c'è la radio nuova, fra, capito? Io ho fatto così, chiaramente me la tengo perché una volta che l'ho riparata ci ho messo soldi sopra, se vado a venderla ci riperdo, quindi siccome non devo comprare nulla, perché questo per me è il baracchino della 27, sia uno che l'altro, il 430 e il 440, me li tengo perché sono molto selettivi rispetto al 140 e al 680, no? C'è come guidare una moto carrozzella con un articolato, e quindi me li tengo tutti e due perché sono bellissime radio, funzionanti alla grande. Faccio girare avanti Franco di Sassari. Gracias. difesa è una fesseria, fra. Il problema è che è messa in un punto molto delicato ed è a saldare, capito? È a saldare, quindi sotto c'è una piazza portadiodi, a fianco c'è tutto il circuito stampato, e quindi bisogna stare molto attenti, poi fare danno, perciò bisogna farla fare da chi ha un laboratorio, da chi ha un saldatore ad aria, eccetera, eccetera, capito? No, punisci così come ti si prende un PL, no, non va bene. Le volte ho viste, vabbè, ma una, l'altra non so neanche dove sia, quella che mi hanno detto, appunto, che mi ha detto Belcuni del backup, quella non so manco dove, non lo so quella di dove. Va bene, va bene. Avanti Natalino. Sì, dai, sto facendo cosa al computer, vi ascolto. Cappa, va bene. Oh, Franco Rissorso, tutti differenza di modulazione tra questa 430 con l'85 e il 440 o sono uguali? No, guarda, perché sono sempre uguale questo. Non c'è differenza da uno all'altro. Vabbè. So che questa mi hanno detto che spingi un po' di più, poi non distorce, vabbè anche il 440 non distorce, a meno che non aumenti tantissimo, allora è un casino, però l'80-85 è un po' deluso dall'85, dall'80 no perché l'avevo già provato, ma l'85 faceva dava una modulazione molto, molto diversa rispetto al 60. Invece adesso ce l'ho collegata già da qualche giorno e mi sto accorgendo che la modulazione è abbastanza buona, tenendo conto che sta andando solo esclusivamente col processore della radio, senza il compressore parametrico dell'85, perché se mando sul compressore parametrico, ecco qua, dice il compressore parametrico è ancora più forte, fra, confermi? Sì, rimane leggermente più spinta la radio, più piena, più piena dell'altro. Però come hai visto non distorce, capito? Non distorce, spinge ma non distorce. No, no, vabbè, l'ho tolto, uso solo il processore della radio, il compressore parametrico l'ho tolto, va bene. Natalino, allora in QRX avanti Capri, riprendi, con quale microfono la stai usando? Sempre con l'80, sembra che stia spingendo di più questa, forse in questa c'hai il processore inserito, invece nell'altra era senza processore, no? Ho capito, sì, ma inserito pompa di più, staccato sia la pari dell'altro, però sento un po' più di acuti, vero Fra? Scusate, mi sono lontanato un attimino, se mi hanno chiamato. Guardi, non so. E io? Sì, ho Capri, sento un po' più di acuti, però più o meno la stessa cosa. Aspettate un attimo che ho sentito, un'attenzione, in lontananza chi è? Se ascoltate, non ho capito, chi è che sei? Ardara, chi è che sei da Ardara? Vieni avanti, ti ascolto solo io, ma molto basso è da Ardara. Ma cosa sei, col camion, cosa sei, stai viaggiando, dove sei? Ma il rappresentante rientrando a casa, ho capito. Arrivi, avvicinati, se no gli altri non ti sentono, Marco. Sono Claudio Sparviero da Sassari. Non lo conosco, non so neanche di chi stai parlando. Ma non penso che ci arrivi in quella zona lì, quello che hai detto, non lo so, non lo conosco. Ciao Marco, anche a te buon rientro con tutto. Alle prossime, siamo qua, non c'è problema. Avanti Fra, di Sassari. Santiago 8, prima quando ha chiamato un po' basso, poi ha aumentato, ma è in movimento. Guarda, se non riguarda la tira un po' tutto, ci accompagna Michele dentro il piazzale di Oristano. Sì, sempre lui. Franco, io l'ho sempre chiamato Franco, non lo so che nome attivo abbia. Ai tempi di Vanino Pantera. E boh, quando entra glielo chiediamo, ma poi c'è sempre lui. Io Franco ho una vita che lo sento radio. Però non mi ricordo se mi trovava anche la moglie. Non lo saccio. Avanti Capri. Capri 2, vediamo un po' se riascoltate con questo qua e come riascoltate. Allora, questo qua è il... Claudio, questo è il 440, il 440. Lo sto sovrastando adesso, l'ho voluto provare a vedere un attimino. Se usciva ancora. E sta tenendo anche la memoria. Avanti a te Claudio. Sì, sì, non c'hai radio, attacca il processore, forse è staccato, non lo so. Sì, il processore è collegato. Come mai? La senti bassa? È un po' diversa la modulazione rispetto a come ti sentivo sempre. Quindi cosa hai fatto? Da quando è dentro la scatola tu adesso l'hai preso, l'hai attaccato e subito è andato in funzione. Così è la radio tua. Ok, vai, c'è la mitigare un pochettino basso. So che questo qua è del 440, che adesso è leggermente basta all'1 e qualcosa. E come tutti anche io ce l'ho uno quasi a 1,5, però sto usando l'altro adesso. Se no abbiamo fatto le comparazioni, comunque già va bene, dai. Va benissimo alla grande. E fa, come mai? Vedi, quindi la batteria a litio quella, va bene, perché se le memorie ci sono è a posto. Il problema sono solo i condensatori, mentre quella di Gianni, quando tu la spegni, adesso lui ce l'ha accesa per lì adesso, la spegne, la riaccende fra 3-4 ore, la radio è a posto, accende tranquillamente, rimane in 27. Se l'accende domani mattina, anziché rimanere in 27, va a 14.000. Ecco, quello è il difetto, quindi bisogna capire il perché. Dov'è che sta perdendo questa memoria? Sì, sì, no, questa l'avevo lasciato su questo canale, su 10, e su 10 l'ho trovato, quando l'ho acceso. Addirittura l'ho trovato anche in 40, e da capo in 7.070. Un altro sorpremio è rimasto, ovviamente la memoria è lavorata. L'ho voluto provare a casa perché l'ho lavorato Gianni poco fa. E l'altro Gianni, come lo so io questo? No, no, no, ma quello di Franco è un problema, ok? Ed è visivo a tutti, è stato visivo a tutti quelli che hanno usato il 440 perlomeno. A me me l'ha fatto in quasi tutte le radio, io di 440 ne avrò avuto una decina e me l'ha fatto. Con l'andare del tempo naturalmente, non è che te lo fa così, non è che si scarica veloce al domani un condensatore, però con l'andare del tempo. Questa è stata revisionata l'anno scorso, cioè il 440 è stato revisionato l'anno scorso, mentre questa, il 430, è stato revisionato quest'anno. Ok, l'avevo mandato a giugno, poi c'era un po' il lavoro, c'era luglio e agosto, praticamente l'ho ritirato a settembre. Lo sono fatto mandare giù a settembre, me l'ha mandato a settembre, capito? E basta. Mentre l'altro, il 440, l'anno scorso, di questo periodo, lo stesso me l'aveva tutto revisionato ed è perfetto. Quindi è una cosa che può succedere. Mentre quello che hai tu, l'ultimo che hai comprato, quello è un difetto che io non ho mai visto, non l'ho assolutamente mai visto, con tutta l'esperienza che ho sul 440 e su quel tipo di radio, ma lasciamo stare le altre, che hanno altri difetti, non quello. Sul 440 io quel difetto non l'ho mai visto, ok, quindi può essere, ti ripeto, io ho consultato subito a Carlo e Carlo mi ha detto potrebbe essere il backup, che ci sia qualche anomalia nel backup della radio, quindi quando gliela mandi vedrà lui, perché lì condensatori da cambiare non ce n'è, tranquillo che non ce n'è, perché se stai attento io ti faccio la matricola mia, la matricola di quella è un'ultima matricola, quella è proprio l'ultima serie che hanno fatto del 440, l'ultima, dopodiché non l'hanno fatta più, perché se vuoi documentarti io ti do il numero di matricola della mia, che è una delle penultime, ok, e quella è molto più alta, quindi è l'ultima che hanno fatto, poi se guardi il pomello del mio, il tuo è più grigio chiaro e quello è più, cioè il tuo è più grigio chiaro, il mio è più grigio scuro, anche il frontalino, il mio è più grigio scuro e il tuo è più grigio chiaro, capite? Anche il colore, delle ultime la tua, Gianni, quindi è una signora radio. Una signora radio, mandagliela e falle vedere questo problema che ha e tienitela. Se devi vendere, venditi l'altra, quella non la dare, capito? Avanti, Franco di Sassari. Ehi, vai, sorcio. Ehi, cazzo, l'ho venuto mollare l'altro perché mi ha fatto il difetto e poi man mano mi sta risparendo su la modulazione. Sì, sì, è proprio sul ricevitore, è proprio il ricevitore, tu lo accendi e dopo un pochino va a calare, ti si suda praticamente. Rimane acceso ma non hai né ricezione né trasmissione, come faceva il mio iniziato, dopo 10 minuti si riprendeva, poi ho iniziato dopo 15, dopo mezz'ora, dopo un'ora, dopo due ore, alla fine mi sono rotto le balle e gliel'ho mandato. Addirittura un giorno per provare ho detto, ma sono uscito alle 6 di mattina, l'ho accesa, l'ho lasciata accesa tutto, sino alle, sono entrata a casa, alle 3, sono arrivata ed era ancora con i puntini, ha detto, boh, tu sei arrivata, io metto la scatola, chiamata a Carlo, gliel'avevo mandata, capito, perché non c'è da fare, non si riprende più, poi una volta che lo fa in continuo non si riprende più. Avanti Capri 2, che Franco è andato a aprire la porta. Sì, non te ne accorgi, se tu lo giri sotto la pancia c'è il numero di matricola, ok, tu guarda il numero di matricola tuo e guarda il numero di matricola di quello che ho tirato io e l'altro che hai comprato tu, sono completamente diversi, il numero è molto più alto, quindi quella è una serie, una delle ultime serie, quella che ti ho dato io, capito? Perciò falle vedere quel difettino lì, perché è un difetto da niente, ok? E te la fai mettere a posto, poi là, se ti ripeto, come mi ha detto lui, sia il backup, ci sia qualcosa da sostituire, ma non ha niente a che fare col difetto che c'ha quella di Franco e quella che avevo io, capito? Però continuo a ribadire che il 440, a differenza del 430, il 430 è più meccanico, quel difetto non lo fa, non l'ho mai fatto, io ce l'ho una vita, ce l'ho 10 anni il 430. L'unico problema che aveva è che ogni tanto si spegneva, quindi falsi contatti, le saldature, mi ha cambiato qualche resistenza, qualche tronzata, me l'ha tutto riallineato, eccetera. C'era qualche pizza appunto da rivedere, eccetera, l'ha fatta, ma non ha cambiato nessun condensatore, niente, nulla, riallineata e me l'ha rimandata, tant'è vero che ho speso molto meno rispetto al danno delle 440 che ha, che fa sempre, è una cosa che c'ha di difetto il 440. È l'unico consiglio che ho sempre dato, tenetele accese, fatele andare, ricezione, trasmissione, perché poi arriva il problema, che il condensatore non ha più tensione, non lavora, non lavorando, e quindi ci va la rovumo, la radio la devi mandare per forza al centro assistenza, perché qua Sassari non c'è nessuno che te la possa fare. Quel danno lì costa dalle 150 alle 180 euro. Ok, quindi è sempre soldi sono da mettere su una radio che è quotata a 350 euro, quindi quando già ce ne metti altri 150, 180 sopra te la deni, perché cosa vai a vendere? Quando la vendi ci hai rimesso la riparazione che hai fatto. Tu immaginati fra quella che c'ha Giulio, che era la mia, io prima di darla a Franco California l'avevo ritirata due mesi dalla messa a punto, così cambiati tutti i condensatori eccetera, l'avevo venduta a Franco, l'ha tenuta un bel po', ma sto parlando di 4-5 anni fa, tutto l'insieme, adesso a Giulio ogni tanto le fa quel difetto, glielo sta facendo più spesso, ok, soprattutto nell'accensione, dopo si riprende e non lo fa più, però quello è già un campanello d'allarme, bisogna mandarla subito, perché oggi ci puoi rimettere 50 euro a cambiarne due o tre di condensatori, alla fine devi cambiare, mi pare che sia 15 o 16, è un casino. Avanti fra. Infatti è così. No, ma conviene non usarla, perché è meglio. E qui farla fare. E quando ho detto che non arriva, sto arrivo, sto aspettando che non si usa, e sto aspettando che venga un cugino di mia moglie che abita a Bologna, e io la faccio portare in persona. Poi quando riscende, ogni tanto scende, questo, va e torna. E quando riscende me la riporta, così mi elimino anche il viaggio. Sì, ma è meglio. dico, se hai la possibilità di consegnarla a mano, fallo, perché è un casino. Io quando avevo venduto il 940, fortunatamente avevo fatto le foto prima di metterlo dentro la scatola, frontale, sopra, sotto, tutto, non c'era un graffio. È arrivato a destinazione che c'era il case praticamente ammaccato, quindi ci hanno buttato qualche scatola sopra e si era ammaccato perché era la cassa del 940, capito? Quindi sono dei tozzoni lavorando, buttano la roba in terra così, nonostante tu ci scrivi fragile, conviene non scriverci niente, perché più roba ci scrivi più lo fanno apposta, e soprattutto lì al centro di smistamento, non tanto il trasportatore sta attento, è proprio al centro di smistamento che succede nei danni, capito? Come è successo a me quando ho ordinato la 7000 che me l'hanno sostituita, sono andato a ritirarla alla Bartolina, giù che ho ricatto la scatola schiacciata, ho detto questa antenna ha preso colpo, questa antenna ha preso colpo, aprimi la scatola e fammela vedere, abbia che ricatto e la punta dell'antenna tutta ficciata, capito? Infatti è per quello che io meglio aspetto, era per consegnarla a mano, è perché lo dico, almeno chi la porta è cosciente di quello che c'ha in mano, quando glielo dici, è una roba fragile che si ricorda che qualsiasi colpo senza fare danno, è molto migliore, dai, ci tiene di più a consegnarla intera. Certo che sì, ci mancherebbe altro, è proprio così come hai detto tu. Avanti, Franco di Sassari, a bestia la italiana. No, Franco, anche si intende, esce, già pompa un po' questi microfoni, e se no c'è la radio, gioiellino, Capri, gioiellino, non hai mai avuto tu il 430, no? Se senti la differenza di ricezione dal 430 al 440, ti cerchi subito un 430, guarda. Gianni, è sempre un rischio, è un rischio che purtroppo chi spedisce deve correre, anche se tu la imballi bene, se fai tutto l'imballo apposta, a me mi avevano insegnato anche di mettere delle bottigliette di plastica davanti al frontalino, fortunatamente le avevo messe, però non le avevo messe sopra il tappo praticamente, il coperchio della rete, ed è arrivata leggermente ammaccata, fortunatamente è un tappo, infatti mi ha detto non ti preoccupare, ho detto guarda ti mando le foto, perché la radio era perfetta, sicuramente è stata buttata, si è stata appoggiata roba pesante sopra e quindi era schiacciata. Infatti quando ho mandato l'ICOM a fare gli aggiornamenti, avevo fatto un doppio imballo con sopra un affare largo, quadrato di polistirolo, proprio sia sotto che sopra. E in più tutte le bottigliette, tutta la gomma piuma, tutto l'avevo fatto un bellissimo imballo. E me l'ho ritenuta, perché ho detto rimandami lo stesso imballo, e così ha fatto. Me l'ho tenuta con la scatola, ce l'ho sui mansarda. Nel caso debba spedire qualcosa, c'ho un bel imballo, insomma, ecco tutto qua. E bisogna stare attenti, purtroppo è così. Se hai la possibilità di andarci e portarla a mano, è sempre meglio di spedire, Gianni. Poi una spedizione con GLS, con chiunque, siamo intorno, entro i 20 kg siamo intorno ai 18-20 euro andare, 18-20 euro a tornare, quindi sono già una quarantina di euro tra andata e ritorno, perciò più la riparazione, come ho fatto io. Io ho 180 euro di riparazione, più mi ha fatto lo sconto, perché praticamente uno l'ha pagato lui, il viaggio non l'ho pagato io, quindi mi ha messo 20 euro di trasporto solo e ho speso 200 euro per il coso, per il 440, capito? Invece per il 430 ho pagato tutto io, perché la riparazione era molto inferiore, era un poco più di 100 euro. Va bene, vediamo se è rientrato Franco di Sassari, se non le prendi tu, Sorso. Niente da fare. Franco? Sì, sì, sì, ma io... Aspetta, parlando a Sorso. Io sono parlato con lui, aggiustare quella radio, perché gli ho detto il difetto che mi faceva, mi ha detto 180 euro, 180, più in giro a punizione, mi ha detto, lì c'è una cinquantina, andate ritorno e via. Infatti, adesso vediamo un po' quando finire, quando devo mandargliela, e se no, la numero buttare via, anche se è diverso dalla sua 340. Avanti a te qua. Sì, devo buttare anch'io quella, però sono più baracchini a sintonia continua al 140 e 80, capito? La 340 è un'altra guba, se poi ti ripeto, hai modo di usare i 430, mi dai ragione, io perché io ce l'avevo tutte e quattro, 140, 80, 430 e 440, mi sono tenuto il 430 e 440 e gli altri due li ho fatti fuori, potevo fare una e una, ma non, ho preferito tenermi il 430 e 440, fra. Perché il 430 è di una selettività allucinante, molti radioamatori ancora la stanno cercando perché va molto bene in HF, molto molto selettiva, molto più selettiva del 440. Io ce li ho tutti e due, me ne accorgo quando mi metto ad ascoltare, molto più chiara la modulazione, meno rumori, meno tutto, capito, nonostante abbia un filtro solo SSB e basta. Mentre quella che ho io è completa di tutto, capito? C'ha tutti i filtri, tutti scheda fonim, c'ha tutta la mia è completissima, l'avevo comprata così, l'avevo voluta proprio completa. Per viaggio un anno. Da quando ho venduto quella a Franco, Califfo, me l'avevo ricomprata subito perché non potevo stare senza il 440, c'avevo solo il 430, il 140 e il C80. E mi sono comprato, mi ho venduto il primo, mi pare che era il C80, e mi avevo comprato il 440, mi avevo tenuto il 140, poi il 140 l'ho venduto lo stesso, ce l'ha Valerio Dalghè. Va bene, è rientrato Franco di Sassari, avanti, Tattari. No, in FM li dovreste ascoltare meglio, volete fare una prova in FM, a voi se ti sente Capri e se ti sente Franco. Beh, non disturbi per niente, ma a me non mi decreda che le femme non mi biasi, io vedere questa cosa morta che non smette, che non si muove, che non c'è correre mai niente, è una cosa che non mi è mai piaciuta. Però se vuoi fare una prova con Franco Di Sorso, Gianni Capri 2 in FM, passiamo in FM. Proviamo, proviamo, passate le FM, vediamo se sentite meglio a Franco. Era 150 watt in FM. Sì, fra Franco di Sassari, è un problema di antenna, è un problema di antenna, perché in FM si riesce sempre a arrivare molto bene, capito? Vabbè, è invasato parecchio, però noi stiamo usando tutte e tre la stessa radio e siamo centratissimi, ma anche tu in trasmissione sei centratissimo, io ti sentivo molto bene, però evidentemente come ricevitore è un po' scarsa quella radio, anche perché con tutti i cacciaviti che stai molto drento. Sì, vabbè, tienitela così, a tutti i dini, intanto noi parliamo in AM, no? E ce ne frega molto. Avanti, fra. Ecco, voglio va bene. Caspita, Capri 2 è arrivata una telefonata qua, bella, bella radio. Grazie, Capri. Adesso gli ho detto io. Sì, ma te lo sto dicendo, io non ero molto propenso, io ce ne ho tre di MC60. E invece di mettere il 60 al 430 c'ho il 60 sul 440 e sul 430 c'ho l'MC85, ma ti dico che risponde molto molto bene, e così anche l'80, infatti ho detto Gianni prova l'80, vedo che sei abbastanza soddisfatto, perché è un microfono che per la tua modulazione va molto bene, capito? Per la mia spinge molto, lo tenere il trimerino dietro quasi tutto a zero, mentre qua invece con l'85 c'ho il parametrico, ce l'ho a 2, il mic level del parametrico, mentre il processore inserito, il mic gain del 440 è neanche a 1, se sollevo succede ancora, non strappa, però è molto più alta, capito, si sente troppo casino. mai sorso? Capo. No, veramente. Comunque il capo lì, anche io sto usando quello lì, sto usando con l'MC70. E la stessa radio, dai, più o meno. E poi è da vedere. Sto tutte usando il C80 o il 340, adesso non ho capito bene. Io sto usando il C80 adesso, e per farci avevo il 440. Avete che capi? 300 euro è un buon prezzo, vale molto di più del 440 e del 430, come valutazione, se è a posto, se è a posto. Ok, poi io ho tutta la linea del 430, quindi ho anche la P230, l'accordatore, quindi no, tutto l'elementatore, colonnina, c'ho tutte, c'ho la linea completa, io sia il 430 che il 440. Me la tengo, perché ti ripeto, ci ho speso soldi sopra e me la tengo. Tu immaginati che il C80 che avevo io comprato nuovo e elaborato da Moa, radio, e qua c'è Capri che lo sa, radio che dava in AM, metteva la portante a 100 watt piena e modulava a 130-140 senza un difetto. L'ho venduta, l'hanno portata via, diciamo, venduta, oddio, portata via così proprio, lavorata a uno di Sassari, non faccio nome, questo di Sassari l'ha data a un altro di Sassari, quest'altro di Sassari l'ha data a Gianni Caprilue, Gianni Caprilue l'ha tornata quindi a me. Quando è tornata a me non voleva vista questa radio, non voleva vista, ha iniziato con mille difetti, mille problemi che a me non mi aveva mai dato un problema, mai un problema. È riuscito a darle una sistematina, perché mentre parlavi si praticamente scendeva la potenza a zero, dava un colpo e si riprendeva. L'ho riuscito a metterla a posto, l'ho data ad un'altra persona, che sembrava a posto, alla fine, guarda, proprio venduta a pezzi ricambio in continente, fra una delusione totale di quella radio che mi scendeva la lacrime solo a vederla, per come l'avevo trattata io, per come l'avevo trattata io, distrutta, completamente distrutta, capito? Ecco, tutti che trattano le cose come certi, tu magari sei uno di quelli più loro sulle cose, maniaco delle cose, capito, delle cose tue, metti di bene, magari la dai a un altro e la usa a calci, si può dire, in poche parole, la usa male, malissimo, per quello, dai, a me che quando la vendi una cosa non conviene mai ricomprarla, perché non sai mai a chi, se me la usa l'altro. È per quello che io a volte preferisco comprarmi cose nuove, perché almeno me le faccio io e so come sono. E purtroppo queste radio, a parte che hanno l'età che hanno, più se ci riesci anche aiutarli a rovinarsi, danno un casino, là, è un casino. Avanti Capri. A proposito di KK, guarda, io ho iniziato a modulare con i Kenwood dal 1985, siamo nel 2017, ho venduto 15 440, 2 430, 8 140 e 4 680. Non ho mai avuto, ma non dico perché lo devo dire, lo dico proprio con molta sincerità, non ho mai avuto un richiamo da nessuno, e anche ultimamente mi hanno chiamato dalla provincia di Oristano, che non so manco chi ha dato il numero, forse qualche trasportatore, se avevo una radio Kenwood da vendere, capito? Si fidano perché io le radio le tengo bene, e quando hanno un problema le mando, le faccio mettere a posto, non ci metto il cacciavite dentro, perché uno è saper andare a regolare un una LC, che è una stronzata di queste radio. Uno è andare a metterci le mani, andare a toccare tutte le cose che vai a distruggere, perché per qualsiasi cosa ci vuole la strumentazione. Qua tutti siamo bravi e nessuno sa manco dove mettere le mani, io compreso, capito? Ci vuole la strumentazione. Se vai a toccare queste radio non stai andando a toccare un trimmer di un baracchino, stai andando a toccare cose allucinanti che sono tutte in serie e in parallelo. Vai a toccare un trimmerino che secondo te si è andato a fare una cosa bella e hai spostato l'altro, è tutto in serie, va tutto calcolato, è tutto un mucchio di cose che vanno elaborate assieme con tanto di strumentazione, quindi il spettro, oscilloscopio, tutta la strumentazione necessaria che ci vuole. Non bisogna mai toccarle queste radio, assolutamente, e soprattutto la parte esterna. E tu, Fra, mi conosci, sei venuto tante volte qua, hai visto le mie radio, io ho radio adattate come il 780 che è da paura, da vetrina, stiamo parlando del 780, quindi è il primo base VU che ha fatto la Kenwood, trio Kenwood, che non vuoi visto di quanto è nuovo, ok? Che sai di chi era, da chi l'avevo comprato. E quindi c'ho sia la serie vecchia che la serie nuova, capito? Però le radio bisogna trattarle bene, non metterci le mani dentro, ma soprattutto curare molto la parte estetica, tenerle pulite, tenerle ordinate, chi fuma non buttarci il fumo sopra, il fumo fa condensa all'interno, fa quella patina gialla che va a rovinare tutti i circuiti stampati, tutta la parte elettronica. Quindi, capito, ci sono tante cose, e vabbè, però ognuno a casa sua fa quello che le piace. Fra, avanti Fra con i Sassari. Volevo chiedere, domani mattina ci sei in frequenza? Da lavoro ti faccio chiamata. Sì, secondo che ora sì, mi rimango sempre a casa fino alle 10:30, alle 11, poi me ne esco un paio d'ore, rientro a mezzogiorno e mezza, l'una, magari me ne vado un po' alla base quadrata, da un'occhiata al giornale, a prendermi una cosa, capito? Io vedo un po', dai, ti faccio chiamata, se vogliamo un po' assieme. L'altro giorno mi sentivo, e dico a Marco, che mio collega si è un po' assopito, quindi non volevo disturbarlo, però lì tu arrivavi bene, Marcolino un po' di meno. In che zona eri, Olmedo? Un po' prima di Olmedo, però una zona un po' bassa, Non avversare di correre a quelle parti, Fra, tu chiamami che già ti sento, perché l'ultima volta che sei andato lì nella zona di Olmedo non ti ho perso un minuto, capito? Poi no, non ce n'è problema. Prova a chiamarmi, se a quell'ora sono a casa ci facciamo due chiacchiere. Avanti Sorso, che ora è? Tutto. Sento, e lui lo sente a me, è strano qua. Sì, perché in trasmissione va bene lui, è un segnalone qua, 9 oltre il 9, però la ricezione del baracchino, secondo me è il baracchino che no, perché quell'antenna risponde, se arriva lì da te lui però non ti sente. Secondo me è il baracchino che è mezzo sordo, secondo me è infatti potrebbe essere anche così. Però ho ancora strano, infatti questo che mi chiedo, io lo ascolto bene, no? Le parole sono chiare e soltanto. Adesso la poco fa, adesso ho abbassato un po' anche il segnale, si è abbassato, però la radio è sempre quella lì, ed è perfetta e chiara. Io gli do, io radio 5, ma almeno 4 gliela do. No, te l'ho detto, è un problema di radio, è sorda, anche da poco gli ha tirato su il trimmerino dello smitter, ma non è problema di segnale, è proprio il problema del suo ricevitore, che secondo me è mezzo sordo, perché se tu lo senti e sei già sorso, vabbè, la tua posizione non fa testo, Fra, sei come te me, abito a tutti i luoghi. Però sto dicendo, tu arrivi e lo senti, cioè tu non arrivi però lo senti, è un problema di baracchino, Franco di Tattari, ma non hai altri baracchini che hanno ricezione, nel senso che si sente, perché tu... È l'altro che è molto simile, ma è uguale, cioè la ricezione è la stessa, o anche un vecchio valvolare, che secondo me sono meglio anche questi di quello lì. Non so, però quei baracchini sono andati, secondo me, sono diventati sordi, vecchiaia, cioè proprio come il vecchietto, non diventa sordo a 90 anni, e così siamo quei baracchini, sono oramai da rivedere, insomma, ecco perché ti ho detto, prenditi un baracchino, insomma, serio, anche anche 220, tipo un Galaxy, Saturn Echo, qualcosa del genere, che almeno hai ricezione. Io sono convintissimo che ascolti. Qualche giorno facciamo la prova, prendo uno dei miei, lo metti lì, sono sicuro che ricevi molto meglio di quelli tui. Ma secondo me invece sono l'antenna, problema di antenna sorda, di ricezione, basta. Ascolta, dai, devo andare, ti saluto e mi saluti anche gli altri, cordialmente ti chiamano domani, dai, se ci sei. Ok, Fra, va bene, dai, salutami la signora. Capri ti saluta Franco da Sassari, anche a te, Franco di Sosso, ma già l'hai sentito. Avanti, Capri. Vabbè, con la prova si può fare, non c'è un problema, Franco ci conosciamo molto bene, quindi no, non ci sono problemi, voglio dare uno dei miei e vedere come, come riceve, come esce, capito? Vedere un po', anche per lì è un 48 che ho io, bellissimo, nuovo, non ha mai stato toccato, con l'MB più 4, e lui si accorge subito se la ricezione è inferiore, se non vuole avere grande eccetera, base, anche il baracchino va bene, però il mio originale nuovo e non l'MP più 4, sono convinto che arriva e sente molto meglio, capito? Molto meglio, vabbè, comunque è uscito, non andrà là. Cosa stavo dicendo? Ma anche tu fate usando l'MC80? No, negativo, il 60 sto usando. Ah, 60, ecco, così 80, sì, ho capito. Mentre ti ricordi quello che avevo, com'era la situazione? Te l'avevo fatto prendere io, poi me l'hai arrivato tu, com'era? Quello, quel 680, quello lì l'avevo preso e qui te l'avevo ridato. Sì, quello lì, che poi praticamente non l'ha voluto più quello là perché era incasinato eccetera, non capito? L'avevo tenuto io, sì, l'ho pagato io a te, boh, nominalmente, comunque me l'avevo tenuto io eccetera. Quello l'avevo venduto ad uno di Alghero e ce l'ha ancora e funziona perfettamente. Mentre l'altro che mi era rientrato, guarda, una delusione totale con la radio, un casino di Gesù Cristo. Un casino, guarda, un casino. No, vabbè, io l'ho tenuta anche poco, quella lì l'avevo tenuta. Diciamo che andava benissimo, perfetta, come radio. Sono, ti ripeto, delle radio eccezionali che però non hanno niente a che fare col 40, col 440, col 430, vanno molto bene. Il 680 è già superiore al 140, ma solo perché ha la scheda dei semietri, che poi un CB non se ne va di nulla. Io ho provato a trasmettere i semietri, ma non c'ha potenza, c'ha 25 watt, lì se non vai potenza non dai luogo, quindi non, alla fine ho detto ma cosa me ne faccio, sto facendo la vetrina dei Kimwood per fare che cosa, e quindi avevo tutti gli altri, mi sono tutto il 430 e il 440, ho fatto tutto qua, avevo intenzione di tenermene uno, e invece me ne sono tenuto due, 30 e 40, basta, non ne voglio altri perché ne ho abbastanza, ho due KF nuovi, ho le due li ho separate, tutto base, io cioè veicolare li odio, tutto base, quindi mi va bene così, no? C'ho le VLU da 100 watt, quindi regolabili, perciò basi con le bande laterali, tutto, e basta così. E chi ci trattiamo il 27, come te baracchini, tanto, di altre radio, cosa si fa? Annuda, vai Capri. E io ho capito, io non mi posso lamentare, sto bene così come sono, non c'è problema. Non invidio gli altri, ma gli altri, qualcuno invidia me. E cosa stavo dicendo? 101 con l'altra linea Alicraft, il 101, roba tutta vintage di quella data lì, io ho dato tutto a Roberto Capri, capito? Ho dato tutto a lui, ho messo tutto in vetrina, intanto io la linea Alicraft ce l'ho, ricevitore trasmettitore, c'avevo l'altra e l'ho data a lui, il 101 non è il ZD, quello che gli ho dato è il 101 Digital, 101 Digital l'ho dato a lui, altra roba l'ho data tutta a lui, capito? Anche il ricevitore, un altro ricevitore della, non so se la Sommer Camp o che cosa era, ma gli ho dato un sacco di roba, quindi insomma c'ha tutto lui. Non ne voglio più tenere di roba che non uso, perché poi rimane lì e sono un accumulo di polvere per niente, Gianni, capito? Mi sono tenuto la linea di Kraft, che ricevitore trasmettitore, lo sai, il 46 e l'altro, poi c'ho lo standard e basta, come vintage valvolari HF, il resto ho fatto tutto, questa è tutta roba nuova che ho preso e basta così. Tanto fai solo, come si dice, montagna e poi non ne vai nulla, non ne vai nulla. Avanti, fra. Ecco, io riprendo e vi lascio perché è già quasi 20. E ci sentiamo. Saluto Capri, ci sentiamo alla retrocedura. Ciao Claudio, non so se c'è qualcun altro, Natalino, non so, se è rimasto in parcheggio. Comunque ci sentiamo per le prossime. Vai, sì, aspetta, lo prendo io. Ciao Fra, grazie per essere entrato a fare due chiacchiere, fate sentire, o se noi siamo sempre qua, fa piacere. Alle prossime, buon proseguimento di serata, buonasera, buon tutto. Vai Capri. E io, Gappa, ricordi, bisogna tenerli. Non ne ho anche di radio, quindi non le ho mai date, le tengo perché è così lo standard che ho io, base VHF, era di Giancarlo Baffigo, figurati, uno dei primi radioamatori di Porto Torres, e me lo sono tenuto così per ricordo, ma ce l'ho sempre, nuovissima lì da una parte, accende pure, funziona pure, però non la uso già, mi interessa. E vabbè, ricordi sono ricordi. Ok, andiamo a mangiare, cosa facciamo Capri? Sì, il DAC è la valvola pilota praticamente, quella che la grande, quella che dà la potenza. Ma ce l'ho già, me l'ha procurata Massimiliano. Ce l'ho, solo non ho voglia, ti ripeto, di aprirlo, di mettere le mani, cambiargliela, perché intanto non lo uso. È sempre acceso, me l'ho acceso anche ieri, però non lo uso, capito, già, e quindi c'è un mare di viti, non mangio mai mettermi a aprire a lui. Adesso un giorno proprio che ne ho voglia, dove adesso te lo faccio e la cambio, perché c'era Massimiliano, me la voleva dare l'altro giorno, e l'ho detto tienila tu, quando, per non tenerla qua, quando voglia di aprirlo e di mettermelo a posto, me la dai, capito? Ce l'ho la valvola, è quella grossa, non sono le due fini, è quella grossa. Ehi, no, ma quelli lì che ti avevo detto io erano funzionanti e che sono stati abbandonati, quindi, però vedi, anche quelli mi ricordavo, se li avevo tanti, una parte l'ho data a te, una parte l'ho data a Roberto. Va bene, dai, ci aggiorniamo domani e niente, dai, che è già pronta la cena qua. Ciao Capri, ciao a tutti. tutti quelli che sono in ascolto qua sul canale 10. Dai. Buonanotte a tutti, a domani. Ciao Gianni. Cosa ha cambiato il tutto Gianni, dai, a domani se coincide. Ciao ciao, buonanotte.